Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona giornata cari gastronauti e buon pranzo a chi si sta recando, appunto, chi sta facendo spesa ancora magari e sta andando verso casa in macchina. Bene, oggi parleremo di un argomento importante per l'Italia, che sono i salumi. Ebbene, si dice sempre che del maiale non si butta via niente e devo dire che l'Italia ne è un esempio, perché dai maiali nascono in giro per l'Italia qualcosa come 400 tipologie diverse di salumi, molti di questi DOP e IGP. Si pensa che ci sono ben 18 salami diversi l'uno dall'altro, quindi una ricchezza incredibile che il mondo ci invidia. E noi faremo un viaggio in quest'Italia sconosciuta, cioè di salumi sconosciuti, conosciuti solo ai locali, perché magari non arrivano neppure al mercato. Ci farà compagnia Luca Monica, amministratore delegato di PEC, un marchio noto, famoso sicuramente, che di salumi, appunto, di salumi ne tratta tanti, e c'è anche un controllo sulla qualità dei salumi notevole, quindi ci aiuterà in questo viaggio. Buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, cominciamo questo viaggio, caro Luca, andiamo in Friuli e andiamo alla macelleria Bier. Buongiorno carissimo Davide, buongiorno Luca e tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Senti Filippo, tu appunto rappresenti un po' questo prodotto che io penso che molta gente che ascolterà il nome forse farà un balzo sulla sedia e dirà: ma di che cosa si tratta? La pitina della Val Tramontina, ecco, sì. Cos'è? Ecco, tu accennavi al maiale, che del maiale non si butta via niente, ma la pitina non è di maiale, vedi, la caratteristica proprio di questo salume, che io lo definisco sempre un salume ma non un salame così scherzosamente, perché tanto prima di tutto non è un insaccato, è da una forma di polpettina, perché questo si faceva proprio nelle nostre montagne, con le carni degli animali che normalmente si allevavano, quindi si avevano le capre o le pecore, o il camoscio, che erano proprio nella vecchia tradizione, e gli animali a fine carriera si utilizzavano il magro di queste carni per fare questo tipo di salume, che poi si mangiava, si poteva consumare sia a cotto quando era fresco o crudo da stagionato. Ecco, ma ultimamente qualcuno mette il maiale in mezzo? Sì, diciamo, ecco, che dopo il maiale si è iniziato a dimetterlo dentro, ma il maiale parliamo di una percentuale molto minima, cioè lardo di maiale si aggiunge una percentuale massima del 30% nelle carni chiaramente molto curate delle capre o delle pecore, e questo si è iniziato però dopo la guerra, quindi dopo gli anni 45, dopo il 50, verso il 50, perché prima non ce n'era, si lasciava addirittura parte del grasso dell'animale, che tra l'altro sai bene che col tempo dopo irrigidiva, per cui veniva anche affumicato molto col ginepro, proprio per confondere certi aromi, non certi sapori non molto gradevoli. E oggi invece, appunto, aggiungendo lardo di maiale, si è superato questo problema, il salume è molto, molto caratteristico, molto buono e particolare, che è apprezzato anche sì nella cucina, soprattutto qui in Friuli, moltissimi ristoranti ormai lo stanno adottando nel loro menù. Luca, tu conosci la pitina? Sì, la conosco, e le versioni un po', diciamo, più originali, forse senza maiale, rispondevano un pochino più a quello che era la tradizione originaria. Oggi però devo dire che, grazie anche alla possibilità di avere un controllo delle carni diverso, la personalità del prodotto di oggi risponde forse un pochino di più al gusto degli intenditori di salumi. Ecco, quindi, come dicevo prima, del maiale non si butta via niente, soprattutto il lardo, perché fino a qualche decennio fa il lardo era considerato un po' un qualcosa di secondario. Poi è arrivato il boom con il lardo di Colonnata, ricordiamo nel 93, quando la Comunità Europea mise il divieto di poterlo stagionare nelle conche di marmo, ci fu una sollevazione popolare, appunto, è la legge 93-43 di allora, e il lardo lardo divenne famoso, prese veramente il via, e oggi ci sono tanti lardi in giro per l'Italia, anche del macellaio, anche di un comune macellaio, perché ormai tutti usano il lardo. Ti ringrazio Filippo, a presto. Carissimo Davide, ci vediamo, arrivederci. Bene, arrivederci. Ciao, grazie, Filippo, grazie a Luca e a tutti gli ascoltatori. 800 24 00 24, ricordo per chi volesse telefonare, 349 238 6666, per quanto riguarda gli SMS. Vedo già che sono già arrivati. Parlerai di salame d'oca, mi chiede un radioascoltatore. Parleremo anche di salame d'oca e salame ecumenico. Bene, e volevo chiederti, hai parlato di controlli sulle carni. Oggi pensi che ci siano maggiori controlli, quindi si possa stare più tranquilli quando si mangiano i salumi? Ma direi di sì, soprattutto se ci lavoriamo i salumi DOP che provengono solamente da maiali nazionali. Diciamo che il maiale nazionale è veramente molto molto controllato, e viene allevato il suino pesante soprattutto, veramente alimentandolo con materiali mangimi che sono assolutamente verificati e tracciati, ha una qualità di vita diversa e diciamo che offrono veramente una garanzia al consumatore anche di salubrità e di qualità, tant'è che prodotti, citiamone uno su tutti, che è il prosciutto di Parma, possono essere prodotti solamente con questo tipo di maiale. Un inciso sul lardo di prima, oltretutto oggi si riescono anche a trovare lardi addirittura provenienti da famosi sumini anche dell'estero, salumi, lardi di Pata Negra e tutto, che magari hanno caratteristiche diverse, però sono interessanti dal punto di vista della diversità di prodotto finale. Quindi. Bene, c'era un radioascoltatore che aveva segnalato appunto, parlerai di salame d'oca. Bene, è caduta la linea col nostro amico produttore di salame d'oca, ma ci torneremo dopo. Allora andiamo nell'area del Culatello, perché il Culatello? Culatello, qualcuno mi dirà, non è sconosciuto, è sicuramente il salume che negli ultimi anni, diciamo che da sconosciuto è diventato molto conosciuto, perché fino agli anni 80 pochi parlavano, pochi conoscevano al di là del territorio dove si produce il Culatello. Poi all'improvviso ha avuto una grande crescita ed è diventato sicuramente notissimo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra chi piace mangiare i salumi. Buongiorno a Tino Tortini, che è presidente del Consorzio di tutela del Culatello di Zibello. Buongiorno Tortini. Buongiorno Davide e buongiorno ai radioascoltatori. Senta, ma come mai, perché è diventato così famoso il Culatello? Io spero che sia per le sue qualità, per il profumo che ha, per la particolarità del prodotto, un prodotto artigianale che ha delle radici storiche lontanissime, che è ambientato in una zona molto particolare che è la bassa di Parma. Sono gli 8 comuni in riva al Po che hanno una caratteristica ambientale molto particolare, una zona piena di umidità e dovuta dal grande fiume, dalla vicinanza al grande fiume, è umidità che è una caratteristica, è un'esigenza del Culatello. Senta, guardi, mentre lei parlava mi è arrivato un SMS che mi dicono, e lo strolghino? Bene, visto che appunto dal Culatello passiamo allo strolghino, ci parla un po' dello strolghino, cos'è lo strolghino? Per me lo strolghino è un salametto fresco fatto con delle rifilature di prosciutto, col Culatello non c'entra molto. Il nome Culatello purtroppo ultimamente viene accostato a tanti prodotti in un modo improprio, perché evidentemente pensano che il nome Culatello sia trainante per la vendita di altri prodotti. Basta dire che hanno inventato il lardo di Culatello, hanno inventato la pepita di Culatello, hanno inventato il fiocco di Culatello, sono tutte cose. Senta, ma lei si sta riferendo alla culaccia, se non erro? Anche, ecco. Anche quella, la culaccia o culatta, che tanti chiamano Culatello con cotenna, non è vero, il Culatello è nato senza cotenna, senza osso, viene messo in una vescica, salato e stagionato, quindi non, il Culatello è solo quello, non ha altre alternative, non ha altre strade. Rimanga con noi, sentiamo Pierangelo, un radioascoltatore della provincia di Cremona. Buongiorno Pierangelo. Sì, buongiorno. Intanto una colina incredibile, infatti venire a quest'ora. Volevo segnalare un salume che ho assaggiato a San Zeno in montagna nel Veronese, non so nemmeno chi sia il produttore, una sorta di culattello affinato nell'amarone per 6 mesi. Sì. È di una morbidezza ed è una cosa straordinaria, mi volevo solo segnalare questo straordinario salume che ho assaggiato una sola volta. Quindi, ma si trattava di un culattello poi trattato con col vino, è questo? Sì. Quello che mi hanno spiegato è che è stato, dopo averlo prodotto via scorrendo, messo nell'amarone per 6 mesi, poi fatto asciugare, poi rimesso nell'amarone e poi assume questa morbidezza e questo profumo particolare. Senta Tortini, cosa ne pensa di queste cose, di queste lavorazioni attorno al culatello? Non lo conosco logicamente, senz'altro, però il fatto che sia morbido dopo averlo tenuto 6 mesi immerso nell'amarone, mi sembra senz'altro logico. Secondo me appunto forse uno a quel punto mangiava l'amarone piuttosto che il culatello, penso. Vabbè, secondo me ci sono dei problemi. Bene, poi un altro radioascoltatore, segnalo il Buristo, zona senese maremmana, ma credo sì, lo conosciamo bene, anche il Buristo è un altro prodotto di quelli sconosciuti, ma abbiamo visto prima, abbiamo sentito un sms, abbiamo letto un sms che ci parlava del salame d'oca. Bene, noi abbiamo con noi Gioacchino Palestro di Mortara, che è un po' il personaggio che in questi anni ha sempre portato avanti questo discorso, ma soprattutto anche del salame, lui produce un salame ecumenico, ecco, io credo che questo sia abbastanza sconosciuto. Gioacchino, ci vuoi spiegare cos'è il salame ecumenico? Beh, il salame ecumenico è uno dei rarissimi saccati che può mettere d'accordo le tre religioni monoteiste, cioè la cattolica, la musulmana e l'ebraica, perché è di tradizione ebraica ed è fatto interamente di carne d'oca, tutto interamente lavorato a mano, ed è un prodotto di quelli straordinari, ecco, veramente, veramente una cosa eccezionale. Senti, ma sì, diciamo che le oche dopo una trasmissione televisiva di Report sono passate un po' alla storia come un qualcosa di drammatico. Ecco, no. Ma ci vuoi togliere, credo che sia importante per i nostri radioascoltatori, sì. Ma per ottenere il fegato grasso o ficatum, come lo chiami tu, si ricorre ancora all'ingozzamento? No. Assolutamente no. Ecco. No. Si è ritornato praticamente ai tempi dell'antica Roma, degli antichi romani e degli egizi, dove veniva dato da mangiare questi fichi secchi con altra frutta e basta, mangiano da sole. L'ingozzamento veniva fatto per accorciare i tempi, ma dato che noi non abbiamo fretta, ecco, cioè da noi questo non esiste. Bene. Cioè, l'animale mangia per conto suo e basta. Bene, questo è importante. Sentiamo Giorgio d'Alessandria, un radioascoltatore. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a tutti e buongiorno, complimenti per questa trasmissione che a quest'ora è letale per chi ha dieta, peraltro. Ma comunque, volevo segnalare un salame abbastanza strano, che qualcuno conosce con altri nomi, ma da noi, io sono mezzo lomellino, quindi mezzo pavese, da noi si chiamava salame della duia, cioè erano dei salamini tipo cacciatorini fatti freschi e ancora freschi, messi in una olla, quindi dalla duia, quindi duia, no? Grasso, quindi diciamo grasso, e poi coperti di strutto funo. Ah, strutto. No? Sì. Che veniva aromatizzato con non so, con del del rosmarino piuttosto che del ginepro, roba del genere, e lasciato raffreddare, poi seconda fila strutto, terza fila strutto, fino a riempirla e coprirla di strutto, e lo si lasciava da novembre, quando era dicembre, diciamo, a fare il maiale, per 2 o 3 mesi al fresco e al buio. Bene, e bisogna dire che esiste anche il salame dell'anduia, e quello è piemontese abbastanza noto, il salamino forse meno noto, ma l'anduia è un, diciamo che accomuna probabilmente la lomellina con il Piemonte come linguaggio. Ma io voglio tornare a Tortini per un motivo, che io tanti anni fa ho dato la caccia a un salume che avevo sentito ma di cui nessuno ne parlava più, e si chiama il Vescovo, e l'ho scoperto nel salumificio di Tortini. Ci vuol parlare del Vescovo, che credo che sia in assoluto, dopo il prete, il più sconosciuto di tutti? È probabile. probabile che non abbia un grande mercato, tanto è vero che ne facciamo pochi pezzi in questo periodo, è un salume più che altro natalizio, sostituisce, è un misto tra il prete e lo zampone. Praticamente il prete, una volta sfilato l'osso, viene chiuso, il vuoto lasciato dall'osso, viene chiuso da due stecche di legno, viene chiuso. Noi invece di chiuderlo in quel modo lì, riempiamo il buco con l'impasto di cotechino, di modo che il vescovo, ecco perché si chiama vescovo, è al di sopra del prete, è al di sopra, prende una forma ben più tondeggiante, rimane più morbido, la fetta è più bella perché nella fetta c'è sia l'intasso del macinato del cotechino che i pezzi del muscolo ancora intero. Va lessato e mangiato come si mangia lo zampone, il prete, il cotechino, insomma, con cura, carauti, eccetera. È un prodotto di nicchia, siamo, lo so ne facciamo un 500 pezzi all'anno. Lo so perché. Bene, la ringrazio. Grazie Tortini, presidente del Consorzio del Tutela del Culatello di Zibello. Stanno arrivando decine e decine di SMS, tutti sposano la salama da sugo. Bene, magari parleremo anche da questa, poi tante altre. Ma sentiamo Raffaele da Modena. Buongiorno Raffaele. Salve, buongiorno, buona giornata a tutti. Volevo solo richiamare l'attenzione anche sulle squisitezze della cucina vegana, o meglio della macrobiotica, perché parlare solo di prodotti a base di carne... Beh, in una trasmissione si può, è una trasmissione alla volta. Io di vegana, di cucina vegana ho parlato e ho pagato anche di cucina vegetariana, uno alla volta, cioè piano piano bisogna essere onnivori e quindi parlare di tutto, caro radioascoltatore, non c'è problema. Assolutamente è onnivoro. Sì, sì, si parla di carne, si parla di verdura, si parla di frutta, parliamo di tutto, non è che si fa dell'ostruzionismo ad alcune cose piuttosto che altre, quindi non c'è alcun problema. Parleremo in futuro ancora di nuovo di cucina vegana e di cucina vegetariana, ma vorrei leggere anche altri SMS. Sto viaggiando per filzette e cucito a Monte Marzino sui Colli Tortonesi. Bene, grazie, va benissimo. Salame di suino nero dei Nebrodi fatto a randazzo. E ancora Pur Senegar, mi sembra che questo sia in provincia di Pavia. Parlano di questo, ho indagato e scoperto un paio di tagli che lo potrebbe effettivamente distinguere dalla normalità. Bene, ora parliamo di mortadella. Luca, di mortadella si intende sempre la mortadella di Bologna. Bologna è così, no? Sì, solitamente si intende quella lì, è la più famosa, la più blasonata e anche forse quella che alla fine risponde più ai requisiti originali del prodotto. Esiste poi anche la meno famosa mortadella di fegato, che però è un prodotto un pochino più circoscritto ad alcune zone del nord e tra l'altro vicine proprio a noi, insomma. Ma le mie preferenze vanno alla mortadella di Prato, che è molto particolare perché c'è anche l'uso di un liquore molto particolare, che è l'alchermes, che gli dà un colore. Vero Nicola Marini del Salumificio Marini di Ferruccia, provincia di Pistoia, cosa gli dà l'alchermes? Pronto Nicola? Mi sente? Pronto? Non mi sente, forse è successo qualcosa. Allora sentiamo Filomeno dalla provincia d'Avellino, un radioascoltatore. Buongiorno Filomeno. Buongiorno Paolini, io l'ascolto tutte le domeniche mentre sto facendo da mangiare. Cosa sta facendo oggi da mangiare? Dei gnocchi con il sugo. Bene, allora ci dica cosa voleva dirci. Volevo dirle per la soprassata di Lione, che ha detto il telespettatore che ha appena parlato prima. Sì. Io sto qua nella provincia di Avellino, un paesino a 8 km di Avellino. Beh, noi tutti, quasi tutti facciamo i contadini, il maiale, lavoriamo la soprassata. E non c'è nessun altro sapore migliore che la soprassata che facciamo noi, perché è paesana, cresciamo noi il salame, anche se io ho viaggiato un po' dappertutto, sono stato in Belgio, in Svizzera, in Francia. Ma come la facciamo noi, la soprassata paesana ha tutto un altro sapore. Bene, è buonissima. Grazie Filomeno, buon appetito quindi al suo pranzo di oggi. Ma diciamo che rimaniamo in Toscana, ora stiamo ricercando Nicola Marini, che è un po', eccolo qua, Nicola Marini, che è un produttore di appunto mortadella di Prato. Buongiorno Nicola. Buongiorno Davide, buongiorno. Allora, nella mortadella di Prato va l'uso dell'alchermes per farla diventare di quel colore? Sì, è proprio degli ingredienti che era presente nella ricetta base, nella vecchia ricetta del dottor Guerra, erano degli ingredienti principali, insieme anche al garofano macinato, e al macis, diciamo dei principali ingredienti che compone questo impasto, sì. Senti, ma invece il resto della carne, cioè diciamo il resto della produzione è tradizionale come la mortadella Bologna, più però ci sono questi ingredienti. Sì, diciamo che è più un salame cotto, perché infatti è una pasta macinata e non emulsionata, è sempre un impasto fatto con carne suina al 100%, con l'aggiunta del guanciale, la parte grassa che viene fatta con del guanciale fatto a dadelli, e poi dentro ci sono ovviamente il sale, il pepe, sia in chicchi che macinato, l'archemens, il macis, il garofano, l'aglio ovviamente, e poi viene fatto questo impasto insaccato dentro delle mulette, si chiamano, che sono dei contenitori, dei budelli naturali. Poi viene fatta una stufatura per 24-30 ore e la bollitura in acqua a temperatura bassa, a bassa temperatura, per controllare appunto la cottura, una cottura molto lenta. Bene, grazie a Nicola Marini. Quindi attenzione, quando la vedete di un colore molto particolare è la diciamo mortadella di Prato, non è una mortadella comune come tutte le altre. Continuano le segnalazioni, il ciauscolo di Visso nei Monti Sibillini, straordinario anche questo, ma noi rimaniamo in Toscana perché andiamo a San Miniato, che in questo momento col boom del tartufo sicuramente è in piena ebollizione questo paese. Buongiorno Sergio Falaschi. Buongiorno. Sergio, voi producete un particolare che si chiama, una cosa molto particolare, spuma di gota. Ci vuole spiegare cos'è? È semplice, è semplicemente la guancia, quella in Toscana si chiama gota, però è la guancia del maiale della cinta senese che riesprime le proprie identità per mezzo di questo prodotto elaborato. In sintesi, è il guanciale che viene serato semplicemente e poi dopo previa stagionatura viene tutto pulito, scotennato, tolti il pepe come facciamo noi, perché la drogatura, diciamo fra parentesi, la preparazione è basata su una spalmatura di d'aglio, poi un pochino di pepe e un pochino di sale. Ecco, questa è la base della preparazione del prodotto. A quella maniera poi viene, dopo averlo fatto riposare, lo mettiamo a stagionare. Dopo la stagionatura viene tolta la cotenna, viene tolto il pepe, tutto fatto a quadrettini piccoli e passato in un mortaio, e da lì viene montato. Viene montato perché la guancia del maiale della cinta, intendo dire anche quella del grigio, che è molto consimilare. Sì, spieghiamo ai nostri radioascoltatori che il grigio è un incrocio, sì, tra il large white e la cinta. Bravo. Sì, il grigio fa parte sempre degli animali semibradi, è un incrocio fra il large white e la cinta, bravo. Sono animali semibradi e se si dovesse fare con la guancia del maiale d'allevamento non esce questo prodotto. Difatti questo prodotto, che è tanto che noi abbiamo immesso sul mercato, facendolo conoscere al consumatore e via, hanno provato a copiarlo, ma non ce l'hanno fatta, perché la differenza è nettamente differente. Perché? Perché un animale che, essendo semibrado, ha il bosco a disposizione e si nutre di castagne, ghiande, tartufi, perché maiale si sa che è un grande cercatore di tartufi, però non le riporta, li mangia e via, esprime le proprie identità nelle parti grasse, cioè tutti i profumi del bosco di cui l'animale si nutre. È una ghiottoneria per loro questo periodo qui, difatti farli uscire dal bosco non è facile nel periodo che c'è tanta ghianda e c'è tanta castagna e via. Che succede? Succede che questo prodotto, quando lo spalmiamo sul pane, abbiamo i sentori della nocciola all'origine, cioè abbiamo la dolcezza in bocca, l'origine, ben essere chiari, e per il seguito. Questa dolcezza cos'è? È tutto quello che ha mangiato un bosco, cioè la castagna, la ghianda e il tartufo. Beh, fa questo tipo di grasso. Siccome io l'ho mangiato mi viene l'acquolina in bocca, credo che a molti che in questo momento si stanno ascoltando venga l'acquolina in bocca. La ringrazio Falaschi di questa lucidissima descrizione, grazie, ma vedo anche arriva un altro diciamo prodotto prelibato, uno dei 18-20 salami che esistono in Italia, il salame di Montisola. Montisola è una piccola, forse l'isola più piccola che esiste in Italia. C'è questo salame molto molto molto particolare. Ma io ora voglio andare in Abruzzo, anzi voglio andare in Molise. Berchigi a questo punto si arrabbierebbe anche. Voglio andare in Molise perché c'è una disputa tra Abruzzo e Molise su un qualcosa di molto particolare, che è la ventricina. C'è la ventricina del Chietino e c'è la ventricina molisana. Buongiorno Pasquale. Salve, buongiorno. Allora, ci spiega salve. Cos'è? Spiega un po' cos'è la ventricina, poi dopo vediamo la differenza. No, dico, come lavorazione non è molto complicata. Sono dei pezzi di carne, tutte le parti del maiale, da 50 grammi l'uno, no? Poi viene condito con peperoncino dolce e piccante, un po' di finocchietto selvatico, l'olio per amalgamare tutto l'impasto e poi viene messo dentro la budella del maiale, cioè anche una volta si metteva nella vescica dove si venivano queste palle grandi, adesso si mettono delle budelle non tanto grandi perché diciamo non si mangia a pezzi ma si mangia a fette adesso, sai com'è? Certo. Sono cambiate le abitudini alimentari. E sì. Senta, e la differenza tra la molisana e la chietina? Allora, quello che vi stavo io mentre ho ascoltato quello che diceva, voi dovete sapere che fino al 63 Abruzzo e Molise era una sola regione. Certo. Poi l'hanno divisa, ma le tradizioni pensi che non si dividono, no? Mo non so. Certo. Come, ha perfettamente come, ragione. Ecco quello che volevo dirvi. Quindi non so, penso che la ventricina molisana è abruzzese una. Bene, bene. Poi ognuno forse, mo non so, però io mi sento anche abruzzese, anche se non sono, diciamo, tanto anziano Bene. Ricordare prima del 63. Bene, questo richiamo al localismo storico. La ringrazio e non a quello geografico-politico. La ringrazio, grazie a lei per questa descrizione di questo prodotto che in Abruzzo e Molise è molto molto diffuso. Ma prima abbiamo parlato di mortadella di Prato, ora aggiungiamo una N, mortandela. Cos'è la mortandela della Val di Non? Buongiorno a Massimo Corrado. Buongiorno. Di Coredo, in provincia di Trento. Massimo. Buongiorno ai radioascoltatori anche, che ci ascoltano. Ci spieghi cos'è la differenza tra la mortadella e la mortandela? La mortadella è tutta un'altra cosa, no? Sì. Diciamo. Quindi invece per noi la mortandela è il nostro prodotto piccolino, è tra i 2 e i 3 etti. Tra virgolette una pasta di salame che si è migliorata negli anni naturalmente, però poi viene avvolta nella rete del maiale, nell'omento, viene adagiata su delle reticelle e ci aggiungiamo anche l'affumicatura con faggio e ginepro e poi si stagiona per 40 giorni anche, ecco. Quindi Massimo, ma la gente fa, diciamo, quando non sicuramente i locali, ma visto che è anche zona di turismo, se uno entra nella macelleria e tu gli dici che hai la mortandela, fa confusione con la mortadella e pensa di comprare una cosa e invece ne ha un'altra, oppure ormai è molto conosciuta? Ma devo dire la verità che è anche molto conosciuta in parte, ma anche sconosciuta perché molti magari la confondono con un fegatello o pensano che ci sia del fegato come il fegatello toscano che fanno, però poi gliela spieghi, la assaggiano subito, ce l'acquisto perché è un prodotto favoloso, insomma, ecco. Bene. Devi calcolare che è un prodotto tutto lavorato a mano, non c'è, la devi avvolgere nella rete, la devi appallottolare con le mani, quindi non c'è la macchina che ti può costruire quel prodotto lì, insomma. Bene, a proposito di localismo, grazie a Massimo Corrà di Coredo della macelleria dal Massimo Goloso, pensa, ha usato questo nome diciamo per giocare un po' sul suo nome e sulla golosità. Bene, appena si è nominato Cintasenese, immediatamente c'è un romagnolo, io lo saluto questo romagnolo perché non so chi mi ha mandato un sms per ricordarmi la razza mora romagnola, è vero, è straordinaria anche quella e per certi salumi sicuramente è migliore la mora romagnola della Cintasenese, qui me le vorranno sicuramente i toscani, ma che ne dici tu? Ma dico che ci sono tutta una serie di di maiali che anticamente in Italia venivano allevati, che si stanno riprendendo in Calabria, in Sicilia. Forse non si dovrebbe parlare solamente di razze, ma dipende sempre dal tipo di allevamento e da ciò che poi il maiale alla fine mangia, e dal tempo in cui possiamo concedere al maiale per raggiungere determinate dimensioni. Rispetto al tempo, volevo fare un piccolo inciso rispetto a una cosa che ha detto l'amico Gioacchino. Lui ha detto: non abbiamo fretta. Nel salume l'ingrediente tempo e stagionatura è una cosa essenziale. Il rispettare determinati tipi di tempi, che chiaramente si traducono anche in costi, è inutile negarlo, non dirlo, è chiaramente un ingrediente indispensabile. Cioè, a temperature non controllate e col tempo che ci vuole si ottengono i migliori risultati. E abbiamo parlato di maiali, abbiamo parlato di centasenese, abbiamo parlato di mora romagnola, potremmo parlare di nero dei Nebrodi, dove c'è un ottimo salame, sicuramente potremmo parlare anche di altri maiali, ma il maiale autoctono in Italia sono 5 le razze autoctone. E noi abbiamo ora, parleremo della salsiccia del Pezzente, che è fatta di suino di razza casertana. Buongiorno a Luciano Di Meo della masseria dei Trianelli di Roviano. Baulini. Buongiorno. Allora... Buongiorno dottore Baulini, buongiorno. Senta, buongiorno. Senta Di Meo, ma perché si chiama Pezzente? Perché vuol dire che era povera? Perché? Sì, era una salsiccia del poverello, delle persone, diciamo, agricoltori che lavoravano la terra rurale al 100%. Chiaramente del maiale, la cosa più pregiata la vendevano, e poi l'altra cercavano di recuperarla e andare avanti nei lavori di campagna, insomma. Quindi ecco perché si chiamava Pezzente. Senta, il suino di razza casertana non è che sia molto diffuso come produzione, come diciamo allevamento? No, assolutamente no. Noi arrivavamo 3 anni, 4 anni fa, era arrivato un bel numero, insomma, chiaramente. Poi per tanti motivi burocratici e altre cose si sono cominciato a diminuire un po' la situazione del suino di razza casertano. Noi lo chiamiamo anche pelatello, insomma, chiaramente, in gergo dialettale. Ho capito. Rimanga con noi Franca da Torino, radioascoltatrice. Buongiorno Franca. Buongiorno. Senta, io volevo sapere se c'è ancora un salume che io mangiavo da bambina a Pavia, allora abitavo a Pavia, e si chiama Galantina. Era molto buono, qui a Torino non lo trovo. Ecco, sentiamo se Luca lo conosce. Ma noi a pochi metri da Piazza del Duomo produciamo ancora la Galantina, che è una ancora a mano, ancora con metodi assolutamente identici a quelli, diciamo, di una volta. Quindi è di maiale anche la Galantina? Si può fare in diverse maniere, però l'originaria è di vitello. Sì, perché c'è un prodotto particolare a Chiaramonte Gulfi, sicuramente da Ad Maiore, come si chiama, il produttore appunto di questa Galantina, che era molto particolare, che è di maiale, che lo produce ancora, la Casa del Maiale, la Casa del Porco anche, se ben ricordo. È un ristorante veramente molto molto interessante, situato in questo borgo bellissimo, dove c'è questa insegna a cui si magnifica il porco, dove ancora ci sono delle tradizioni. In quel caso si chiama gelatina, che è una cosa un po' simile alla soppressata, che è una cosa che si produce veramente dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Sì, io ricordo di aver mangiato un paio di volte, cioè tutto a base di maiale, quindi poi il personaggio è un personaggio mitico. Ma ora andiamo in Trentino, torniamo in Trentino. Trentino ha questa tradizione di alcuni salumi molto particolari, che sicuramente sono salumi anche che parlano di recupero, e uno di questi è la ciuiga del Banale. Buongiorno a Ivo Cornella. Buongiorno a lei e anche a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Siamo a San Lorenzo in Banale, diciamo, perché la ciuiga è la ciuiga del Banale. Senta, spiega ai nostri radioascoltatori cos'è la ciuiga? Ma la ciuiga è un insaccato fatto di carne di maiale e di tappa. Era la famosa Brassica campestris, comunemente chiamata rapa bianca. Diciamo che era un salume della fame, proprio era l'ultima, come posso dire, l'ultima stazione della fame, così. Esatto, prima ho parlato del salame dei pezzenti, no, questo è il salame proprio che è nato dalla povertà più nera, è nata all'incirca nella seconda metà del 1800, dove qui nella nostra zona, il Banale, c'era tantissima povertà, c'erano tanti figli e tante bocche quindi da sfamare, e l'ingegno di una persona, certo Palmo Donati, è stato quello di cercare di amalgamare assieme le rape, tantissime rape, allora fino all'80% di rape, e pochi scarti di maiale, perché il maiale, bene prezioso come era in queste nostre zone, tre quarti veniva così conferito alla famiglia cooperativa per pagare le derrate che non si riuscivano a produrre in casa, tipo lo zucchero e cose varie. L'altro quarto, una parte veniva così tenuta per le famose luganeghe, che venivano così conservate nelle botti di con lo strutto, e infine è nata la ciuiga. La ciuiga è nata proprio in questo contesto di povertà. Certo, abbiamo visto gli ultimi salumi, appunto, quando si dice che del maiale non si butta via niente, si dice proprio questo, che in certi momenti è stato veramente un animale di grande sussistenza, di creazione anche con ma tanti salumi sono nati in questa maniera. Ma anche, pensiamo anche l'anduia calabrese, che è nata proprio quando, questo è un recupero di grasso di maiale con il peperoncino, ma si potrebbe andare avanti tantissimo. Ma volevo solo dirle questo, che io sono venuto tanti anni fa a San Lorenzo e devo dire che è difficile trovare la ciuiga, perché non è facile, no. Viene prodotta, poi dico nel tempo è diventata un po' più nota, ma 10 anni fa non era facile ancora. Beh, questa tradizione non è mai venuta meno nelle nostre case, probabilmente non hai imboccato la strada giusta. La casa giusta. Va bene, grazie a Luciano, a Ivo Cornella, grazie anche a Luciano Di Meo. Bene, abbiamo fatto questo lunghissimo viaggio tra i salumi italiani, ma ne abbiamo dimenticati tanti. Allora me ne viene in mente uno, la coppa di testa che fanno a Sassello, che fa un macellaio che si chiama Giacobbe, in cui l'ha arricchita, perché anche quella era povera, ha cominciato a mettere scorza di limone, arancio, chinotto, è diventata così. Poi potrei ancora andare, ecco, la salsiccia matta è un altro prodotto di recupero che veniva fatto con tutte le parti minori del maiale. In alcune parti c'ha anche dei nomi molto molto molto particolari. In Romagna, nella zona dove sono nato, si chiama ciavarro, perché veniva fatta con gli scarti di montone all'inizio, poi piano piano si è passato al maiale. E poi ancora la mustardella, che non è la mortandela, è un'altra cosa ancora. C'è la mortadella di Camaiore, c'è ancora poi il biroldo, i coglioni di mulo, c'è ancora poi il bufalo beef, perché anche dal bufalo maschio si sono cominciati a fare dei salumi, a cominciare dalla bresaola di bufalo, appunto. Oppure c'è anche il prosciutto di pecora. Il prosciutto di pecora lo produce un piccolo produttore a Ploaghe, in Sardegna, e diciamo lo esporta 100% appunto nel mercato arabo, perché ovviamente nel mercato arabo, cioè, non può andare il prosciutto. Ti viene in mente qualcosa che abbiamo dimenticato? Ma i prodotti veramente sono tantissimi. Volevo dire che nel panorama gastronomico internazionale spesso si fanno i paragoni, ci giochiamo i primati del vino, del formaggio, con i francesi, con tutti. Penso che possiamo dire che nella salumeria veramente non abbiamo il paragoni. Certo. La varietà che abbiamo noi da nord a sud e gli intrecci con la storia, con momenti economici diversi, con le religioni, con la cultura, e quindi l'esperienza che ha veramente la salumeria italiana è una cosa veramente imparagonabile. Infatti dovremmo essere molto più fieri di questi prodotti. Mi sono dimenticato ancora del Bellecotte, della Bondiola e della Bondola, mi sono dimenticato del salame rosa, che anche questa è una roba veramente molto molto raffinata. Bene, poi magari me ne sono dimenticati tanti altri, però non è facile ricollegarli tutti. Come ho detto, siamo oltre a 400 le denominazioni. Poi vedo che mi continuano ad arrivare SMS: il salame d'asino e di cavallo. Bene, questi non erano, abbiamo parlato, caro radioascoltatore, di maiale, quindi non siamo andati fuori. Bene, ci avviciniamo alla conclusione. Io vi auguro, visto che è già l'una, vi auguro buon pranzo. Immagino che qualcuno sarà venuto voglia, chissà, di mangiare questi salumi. Alcuni sono un po' difficili da trovare, però provateci. Un caro saluto da Davide Paolini e buon pranzo a tutti. Ciao Luca, saluti, grazie a tutti, buon pranzo.